Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Jim andò da Jules, che non aveva ancora capito perché era stato messo alla porta. Gli raccontò tutto esattamente. Terminò dicendo: «Non ci siamo dati un solo bacio». Era vero. Jules andò da Magda. Si scusò. Magda no. Ebbero una spiegazione e una nuova luna di miele. Continuarono a vedere Jim come prima, senza imbarazzo per nessuno dei tre. Jules e Magda andarono a fare un viaggio nel sud della Francia. Mandarono a Jim delle fotografie commoventi nelle quali apparivano come due esseri lunari e sembravano molto uniti. Jim sperò per Jules. Poco tempo dopo il loro ritorno, Jules disse a Jim: «Amo Magda, ma è un'abitudine, non è il grande amore. Lei è insieme una giovane madre e una figlia affettuosa». «Che bella cosa», disse Jim. «Non è l'amore che sogno». «Ma esiste quest'amore?» disse Jim. «Certamente, è quello che ho per Lucie». Jim si trattenne dal dire: «Perché non la possedete?» «D'altra parte», disse Jules, «non perdonerò mai a una donna di amarmi così come sono. C'è in questo qualcosa di perverso, un compromesso, da cui Lucie è immune. Lei non accetta nemmeno un'infima parte di me». «Chiunque potrebbe pensarla così», disse Jim. «Sì, potrebbe», disse Jules, «ma io lo faccio». «Ebbene», disse Jim, «è cosa eroica e rispettabile. Come essere un martire. È la chiave della vostra vita. Se Lucie vi amasse...» «Non sarebbe più Lucie», disse Jules. Era durata 8 mesi fra Jules e Magda. 8 mesi buoni, a volte come il pane. Arrivò una lettera di Lucie che annunciava la sua venuta a Parigi per l'estate seguente. Jules risolse di dire a Magda di Lucie nel modo più chiaro. Fino a quel momento aveva accennato appena alla sua esistenza e Magda aveva potuto credere che si trattasse di una storia finita. Lo fece religiosamente, così come aveva acceso una volta il fornello sotto il suo letto. 2 giorni dopo, Magda se ne tornò nel suo paese. Si risposò pochi mesi più tardi con uno di lì, un vero uomo equilibrato e generoso, come scrisse loro, e lei era felice e non serbava rancore a Jules, anzi... Odile. Jules aveva incontrato al caffè degli artisti insieme a Jim una nordica di 18 anni, Odile. A lei piaceva andare a prendere il tè con loro a casa di Jules, che abitava non lontano da quel caffè. Era divorziata, diceva lei, parlava una sua lingua approssimativa, era diretta, brutale, piena di humor e tutta panna. «Io capire niente la vita di uomini e donne qui, in mio paese essere il contrario, loro qui fare amore, quando loro avere voglia. Questo sarebbe importante, io volerei imparare qui». Jules, tutto preso da Magda a quell'epoca, non provava alcuna attrazione per Odile. La trovava divertente e quando era da lui la trattava come una piccola gatta. Giocava a domino con lei e le dava stravaganti lezioni di lingua. I buoni voti erano certe pipette di zucchero rosso che lei sgranocchiava rumorosamente e che a quell'epoca costavano un soldo. Odile ebbe al caffè una discussione ad alta voce con Jules. «Come? Io dire... Io cadere su mia sedera. E voi volerei dire io cadere su mio sedere. Shocking. Voi, signore, mio sedere. Io, signora, mia sedera. Voi imbrogliareme». Tutti i clienti del caffè le diedero ragione. Un giorno che era a casa di Jules gli disse: «Parecchi al caffè vogliono imparare me. Io non volere. Io preferirei imparare con Jim. Voi che cosa consigliare?» «Jim, buon professore», disse Jules. «Che pensare Jim di me?» «Jim, pensare voi, belli occhi, bella bocca, belli capelli, bella pelle bianca, bello tutto», disse Jules, che aveva dovuto adottare il suo linguaggio. «Voi pensate lui avere voglia imparare me?» «Lui avere voglia». «Voi proprio sicuro, sicuro?» «Io proprio sicuro, sicuro». «Voi non avere voglia?» «Io non avere voglia». «Perché voi non avere voglia?» «Io avere voglia imparare altra ragazza». «Io conoscere lei?» «Voi non conoscere». Lei stava per chiedere «perché io non conoscere lei?» Ma avendo visto l'ora, tagliò corto. Jim venire oggi per te? Jim venire. Vuoi prestare me e Jim vostra camera oggi se noi hai bisogno? Io prestare. Per fare noi tutto quello che volere? Tutto quello che volere. Vuoi uscire quando io fare segno? Io uscire. Voi mica arrabbiato per niente? Per niente. Si misero a giocare a domino. Arrivò Jim, presero il tè. E qui Odile attaccò un clownesco numero di seduzione recitando per Jules e per se stessa. Jim stette al gioco senza sapere di cosa si trattasse. Odile gli era piaciuta al primo sguardo. Jules faceva la parte dell'imbonitore da circo. Odile gli faceva domande come a un confidente. Tanto fece che Jules non riuscì a trattenere il riso. Si teneva ai fianchi dicendo «basta, basta». Jim rispondeva a tono anche lui in quella lingua stravagante con serietà in fondo. Era proprio su questa inconfessata serietà che Odile costruiva il suo numero, nascondendo la sua di serietà. Chiamava Jim «uomo nuovo», credendo che volesse dire «imbecille», perché aveva letto durante la sua ultima lezione con Jules, che era il solo a capire, queste parole giustapposte all'inizio di «Tête d'or» di Claudel. Quando però quel crescendo di incongruenze e l'interrogatorio indiscreto di Jim furono arrivati al dunque, fece a Jules un cenno regale con le sopracciglia, indicandogli la porta con l'indice teso. Lui obbedì, improvvisamente triste. «Noi nascondere sotto lenzuoli», disse Odile, e cadde senz'altro fra le braccia di Jim. Quando verso mezzanotte Jules tornò a casa, trovò ben sistemati sulla tavola gli avanzi di una cenetta e nel letto, penetrante, l'odore fresco di Odile e il profumo del sapone inglese alla moda che lei si portava sempre dietro in borsa. L'indomani Jules e Jim stavano lavorando in casa di Jules quando sentirono un allegro «yuhu» attraverso la finestra aperta. Era Odile che passava accompagnata da un suo alto compatriota. Aveva i piedi nudi nei sandali alla francescana, una lunga cappa spagnola nera, un gran cappello di paglia blu scuro genere esercito della salvezza. Alzò verso di loro il viso trasparente incorniciato dai capelli biondi e gorgheggiò una risata. Le videro fino in fondo la bella gola sana e i tendini del lungo collo bianco. «A fra poco!» gridò. Ritornò spesso, quando voleva lei. Era sempre la benvenuta. Jim si chiedeva perché avesse scelto lui invece di uno di quei bei giovanotti del suo paese che le stavano attorno. «Lo ha detto», rispose Jules. «Con voi impara la cultura latina, una libertà di costumi senza brutalità e senza falsi pudori. Ha un istinto sicuro, sa quel che fa per lei. Le donne del suo paese qui vivono nei grandi alberghi coi loro uomini e di Parigi si godono solo la facciata». «Ma sono poi così latino io», disse Jim. «Uno dei miei bisnonni era nordico. Io assomiglio al suo ritratto e sono ancora più alto degli amici di Odile». «È proprio questo ottavo di sangue della sua razza che vi rende accettabile a lei. E anche il fatto che abbiate vissuto abbastanza a lungo nel suo paese da assumerne esteriormente il contegno. Un bel miscuglio questa Odile. Io ho avuto il tempo di parlare con lei più di voi. È di famiglia aristocratica da parte di padre, popolare da parte di madre. È per questo che ignora le mezze misure e insegna a quelli che la guardano». «Che cosa insegna?» «Shakespeare», disse Jules. Un giorno Odile portò Jim a casa sua. Lui non sapeva neppure che ne avesse una. Era un appartamento di 3 stanze che dava su una strada cieca in un vecchio edificio di un quartiere modesto. Le prime 2 stanze erano vuote, il pavimento di legno era lavato, pulitissimo. Sui muri una vecchia carta da parati a fiori. La 3ª stanza, dai muri imbiancati, conteneva soltanto un materasso messo per terra a far da letto con lenzuola ricamate. Abbastanza grande per 2 persone. I guanciali erano messi uno sull'altro e non accostati. Sul piano di marmo nero del camino c'era una fila di bambole sedute. Per terra, accanto al materasso a portata di mano, stavano allineati una serie di animali di piume e di peluche, bianchi per lo più, certi spelacchiati e certi anche nuovi, quanto di meglio Londra e Parigi producano in questo campo. Odile si sedette sul letto e li passò in rivista. Si comportava in ogni occasione come se fosse stata sola e faceva sempre e soltanto quel che aveva voglia di fare. Era per questo che Jules e Jim avevano rispetto per lei. E proprio questo rispetto, che Odile sentiva, le permetteva di essere a suo agio assieme a loro. Prese in mano una per una le sue bestie e parlò loro come dopo una separazione durata alcuni giorni. Jim, seduto per terra, la schiena contro il muro, aveva l'impressione di essere con una bambina nella stanza dei giochi. Odile scoprì una macchia sul suo belante agnellino bianco, lo annaffiò di benzina e lo strofinò con la manica di un pigiama di seta bianca. Poi bruciò una lettera. L'agnello prese fuoco. Lei lo avvolse in una copertina. Jim si aspettava che scoppiasse un incendio. L'incendio non scoppiò. Jim capì a sprazzi che un'anziana vicina veniva a fare le pulizie, che Odile aveva abitato in quella casa per dei mesi, forse con quel suo marito, che aveva poi venduto ai vicini e ai rigattieri tutti i suoi mobili tranne materasso, bambole e animali, che era assai più bello come era adesso, che avrebbe liquidato anche il resto, portandosi via solo qualche valigia. Jim cercava per loro due un alloggio che non fosse una stanza d'albergo. Avrebbe volentieri comprato il tutto e ripreso l'affitto a suo nome. Non c'era niente che potesse far da cornice a Odile meglio di quell'appartamento deserto. Ma quel luogo era popolato per lei di fantasmi e proprio da questi era andata a congedarsi. Era escluso che Jim potesse venire a stendersi su quel letto accanto a Odile e alle sue bestie. Odile, con l'aiuto di Jim, rovistò a fondo negli armadi e in cucina. Gli tese una bottiglia piena. «Io portare via questo!» «Che cos'è?» chiese Jim. Lei prese un'aria grave. «Questo essere vetriolo, essere per l'occhio di uomo bugiardo. Lui tornare un giorno. Io tenere questo per lui. Io avere saputo questo al caffè. Ragazze, modelle, detto giudici, sempre gentili, mai punire troppo». Jim le spiegò che in mezzo a tutti i suoi pacchetti quella bottiglia avrebbe finito per rompersi e per bruciarle i piedi e che si poteva comprare vetriolo dappertutto. Lei disse «Sì, ma non stessa bottiglia che io ha giurato gettare lui». Si lasciò convincere alla fine e vuotò la bottiglia un po' a malincuore nello scarico del lavandino, dove il liquido sfrigolò schiumando. Jim assistette senza intervenire, sforzandosi di non ridere e deplorando l'assenza di Jules alla vendita della biancheria e del materasso alle vicine, vendita nella quale Odile si rivelò donna d'affari insieme a veduta e conciliante. Uno dei bei giovanotti della banda di Odile andò a invitare Jim a una cena. Jim lo conosceva poco, lo trovava simpatico, pensò di accettare. «No», disse Odile, «io non volere mescolanze». Andò a quella cena da sola. Odile spiegò a Jules, «loro trattare me bene, come una signora. Jim pure, però non essere stessa cosa, io non volere uno vedere l'altro, e poi loro volere forse cambiare Jim». Odile continuava a imparare, stando con Jim, in un modo molto attraente per lui. Compariva all'improvviso quando ne aveva voglia, ridendo da sola dell'intero creato e andando avanti a ragionare ad alta voce. Jules e Jim avrebbero voluto prender nota di tutto quello che diceva, ma la presenza di lei sopraffaceva tutto e impediva loro di farlo. Fra le dune. Odile e Jim ebbero voglia di andare a passare 15 giorni al mare. Odile volle portarsi via Jules. Jim lo desiderava e Jules non chiedeva di meglio. Presero allegramente il treno in seconda, perché non c'era la terza, fino ad Amsterdam, dove tutto li divertì, specialmente i caffè austeri. Odile e Jules non avevano mai maneggiato pezzi da domino tanto grossi. Le agenzie non avevano più niente da affittare sul mare. Jim dovette percorrere la costa in bicicletta per 2 giorni prima di trovare la villetta sognata, isolata, nascosta fra le dune, battuta dal vento, bianca di fuori e di dentro e senza mobili. Quando Jim tornò dopo mezzanotte nell'alberghetto dove alloggiavano e si arrampicò lungo la ripida scaletta della loro stanza, che assomigliava alla cabina di una nave, trovò Odile che dormiva con la guancia contro il pigiama di lui, ben piegato. Sembrava un angelo. La luce la svegliò. Disse «Io buona, io dormire sola sola». Jules, che stava entrando, alzò un dito. «Perché io non avere voluto te in mio letto». «Tu stupido», disse Odile. «Tu non capire io volere venire tuo letto perché non avere miei animali e non piacere dormire sola. Ma io buona per Jim». «Ma forse io non buono», fece Jules. Lei gli lanciò uno sguardo indignato. Si sistemarono nella villetta. Presero in affitto 2 materassi, 3 sedie, un tavolo, qualche pentola. Odile e Jim dormirono al pian terreno, nell'unica grande stanza, e Jules in soffitta. La cucinetta serviva anche per lavarsi. Odile si rivelò a modo suo donna di casa, lavava abbondantemente il pavimento 2 volte alla settimana, dopodiché ci gettava bucce di fichi e di banana, noccioli di pesca sui quali poi la notte si scivolava. Diceva «Questa non roba sporca, io avere diritto perché io lavare». Jules e Jim, armati di pipe, andavano al mercato. Ritornavano portando ceste di verdura e latte. Era il tempo che si riservavano per stare insieme. I pescatori venivano a offrire il loro pesce. Odile li riceveva con un pigiama che aveva un gran buco sul di dietro e raccontava loro storie incredibili di cui quelli non capivano un H. Il terzetto era conosciuto in paese come i tre matti, ma a parte questo era ben visto. La cosa fu all'inizio paradisiaca. Odile si divertiva di tutto. Jim faceva di giorno dei bagni di mare e di notte dei bagni di biondezza. Jules giocava per delle ore con Odile, poi lavorava un romanzo nella sua soffitta mettendo la sedia sulla botola di accesso per sfuggire alle invasioni di Odile. Al mattino, Jules portava a letto a Odile e a Jim il caffè latte e i crostini imborrati. Pensava che quel loro amore, delizioso ma goduto fino alla sazietà, sarebbe stato breve. Sempre di più le notti di Odile appartennero a Jim e le sue giornate a Jules. Durante i pasti, Jim era stanco a volte e Odile sgradevole con lui. Siccome Jules non prendeva le sue parti, Odile fece delle scenate a entrambi, chiamandoli borghesi, artisti da quattro soldi e scrittori da niente affatto. Loro ridevano. Jules rispondeva: «Hai senz'altro ragione, facciamo quel che possiamo». Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.